Conduce la Zanzara alla radio insieme a Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi o David Parenzo? Vittorio Sgarbi. No. Sei un criminale, capra come nessuna, incapace e ignorante. Criminale! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Al tonno, bicchiere di vino ignorante, podcast della Zanzara. Se Dio mi chiama, sono pronto e vado felice. Vado felice! Non possiamo mai dimenticare, mai. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... la referendum... Ma non è che non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. E poi... Ma se Renzi perde e se ne va e lascia la politica, lei lascia la politica o no? Sì, perché sì. Ovviamente è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Prima Renzi, poi la Boschi dichiaravano che avrebbero lasciato la politica se avessero perso il referendum. Ragazzi, queste cose non vanno mai dimenticate. Mai. Che ti devo dire? Se hai ragione. Hai ragione. Che ti devo dire? Hai ragione. Ma questa c'è volta dell'altro. Hai ragione. Io finirei qua perché è molto più forte. Beh, chiudere sono, una zanzara. Sono appena le 18.37. Ma esatto. Ah, tu dici chiudere la zanzara è molto direttamente. Più forte. Chiudere la zanzara. Farlo noi. Loro non sono andati a casa. Andiamo a casa bravo, noi. Bravo, pagati però. Bravo, però bravo, pagati, amico bravo, mio. Bravo. Però pagati. Perché non chiediamo, chiediamo, almeno io posso chiederlo, di andarcene con i soldi. Beh, bellissimo, andarcene con noi. Chiudere sì, tutto, chiudere sì, tutto no, e ma, ci danno i soldi. Ma pensa che valore avrebbe, dice, non ve ne siete andati voi e siete di nuovo al governo. Ce ne andiamo noi della Zanzara, ma pagati, con 13 mensilità, fino al 2024, però senza andare in onda. Bellissimo, sarebbe uno smacco pazzesco. Ma almeno 24 mensilità, due anni, fammeli dare, no? Due anni. Sì, ho detto 13 mensilità fino al 2024. Fino al 2024 ah, però tu dici no. Fino al 2024. Vabbè ragazzi, c'è dell'altro però. Non c'è solo Renzi e Boschi che abbiamo mandato all'infinito e manderemo all'infinito nei giorni scorsi. Si è aggiunto un altro personaggio che abbiamo ripescato. Anche il signor Carbone. Il tuo amico Carbone, direi. Io non ho nulla contro Carbone, per carità. Deputato, persona anche gradevole, canta benissimo, per esempio. È uno che canta, sì, sì. L'ho visto all'opera cantare, canta benissimo. Come sì, politico sì. Non lo so, non so sì. Giudicare se è un deputato. Insomma, un peone, no, si un direbbe deputato. Nella Prima Repubblica si direbbe un peone, no? Però è stato, ma senza offesa, però è stato un capisaldo, cioè uno dei simboli del renzismo, diciamo, no? Degli uomini di Renzi. Signor Carbone, senti che diceva, senti. Lei, se il referendum non passa, lascia la politica anche lei? No, ma ti posso dire una cosa? La risposta è sì e spiego anche no, perché. Carbone, non si dà un momento. Ma aspettate, ma posso dire una cosa? Cosa resta? Ma posso dire una cosa? Lascia la politica anche lei? Me le dico di sì e le spiego anche perché. Sentiamo. Se la Costituzione lei non riesce a cambiarla, se ne va a casa. Dopodiché entriamo nel mettere. E certo che vado a casa, perché vuol dire che ho fallito. Io, grazie a Dio, non campo di politica. Io faccio altro nella vita e sono una persona seria. E per me serietà in politica vuol dire promettere di fare le cose. Se le cose non ci riesco, non posso farle, faccio altro. Beh, ragazzi, ma queste sono dichiarazioni che non possono essere dimenticate. Magari saranno frutto di un momento in cui erano sicuri di vincere il referendum. Cosa vuoi che ti dica? Cioè, uno dice, io posso fare altro. Allora, dopo l'esito del referendum, uno prende atto e ti dice, beh, sì, qui sono le mie dimissioni, ho fallito. Quello che pensavo fosse una cosa giusta, gli italiani perché me l'hanno fatto tutto loro, cioè, hanno detto tutto e loro. Capisci, uno non può dire niente. Questo è il fatto. Non è che siano stati loro da soli, con un microfono davanti. Ma lei è sicuro di quel che. Esatto, punto, io lo ripeto, capito? Ma lei è sicuro che vuole lasciare la politica? politica. Siamo noi che gliel'abbiamo estorto. Lì era il signor Fazio. Fazio. No, no, no, primo Fazio. Adesso no, prima la Merlino. Fazio con Renzi. Ora la signora Mirta Merlino. Ottima la Merlino, peraltro. Ottima, ottima in questo Merlino. Caso. Ottima, sì, in questo caso. No, sempre no, in ottima. Generale, in questo caso io sempre dico. Tu devi dire sempre. Ottima. Ma perché io dico. No, ma io mi fermo. È un dato di fatto oggettivo. Un dato di fatto oggettivo. Oggettivo, oggettivo. Allora, chiudiamo qui dai 18 e 40. Abbiamo il buon esempio. Dobbiamo chiudere qua. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Perché è uno smacco. Domani ne parlano tutti. No, possiamo chiudere il a Natale. Va avanti e la zanzara. No, chiudiamo, chiudiamo a Natale. Ma a Natale si chiude comunque. Scusa, che, sì, che sorpresa vera, sì, è. Vera. Che cazzo di aspetta sorpresa. Aspetta un attimo, è? C'è un altro elemento. Però oggi il personaggio del giorno in realtà non è né Renzi né Boschi né Carbone. Ai. Il nuovo ministro dell'istruzione, amico. Ah, ok. Beh, amico, simpatica, beh, io l'ho incontrata qualche volta. Valeria Fedeli, sì, simpatica, sì. Per carità, ma anche Hitler, magari se ci pensava, beh, se uno ci parlava, era simpatico. Che cazzo di paragone? No, in generale posso dire, no, non voglio io paragonare. Escludo che Hitler possa essere simpatico. Ma magari se ci parlavi era simpatico. Che ne so. Mauro Damantova, se ci parli, è simpatico. No. È simpatico. No, no, nemmeno. No. Sai Dici perché? No. Per esempio, come sta a proposito? Pare che è arrivato in ospedale, ma non si è ricoverato, è tornato indietro. Non ma dai, dico tutta una posso dirti che allora è tutta una balla colossale tutte le volte. Ma no, sta male. Ieri mi hai fatto fare anche una sorta di peana, di no? Di canto funebre, di epitaffio. Lo sapevo che avresti detto. E poi sta bene, cazzo. Ma dai, raga, però ma che roba è? Siamo al top! Siamo al top! Sai cosa avevo? Una valvola del cuore d'oro. E chi l'ha messa? De Benedetti. Ma che cazzo, no, che valvola d'oro De Benedetti, figura. Ragazzi, il personaggio del giorno è il nuovo ministro dell'istruzione. Quindi. Ma no, non ma so se sta bene. Ma fanculo allora, dai ragazzi. Ma non si gioca su queste cose. Allora, fermi tutti. Nah. Il personaggio del giorno è il nuovo ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli. Ve la ricordate tutti, forse, anzi forse non se la ricorda nessuno in realtà, non la conosceva nessuno, la conoscono solo i salotti televisivi, vicepresidente del Senato, una che a mio parere farebbe meglio a darsi un'altra acconciatura perché è inguardabile, i capelli rossi sono inguardabili, così come c'è. Sembra una signora degli sai anni... Sai perché li ha rossi i capelli? Sai perché? Perché? È comunista! Beh no, sì è vero che un po' comunista è stata, però... Ma io, uno può andare in giro a fare ministro con quei capelli lì. Cioè, sembra mia nonna. Cioè, mia nonna con i bigodini. È una cosa terribile. Cioè, con tutto il rispetto di mia nonna, ma dico, mia nonna con i capelli rossi in quel modo. Ma si faccia bene i capelli, una bella messa in piega. Ma sembra una degli ma anni 70. Ma cosa c'entra i capelli che ha, però? Sembra una. Nel merito politicamente. Del movimento degli anni 70, ma dai. Ma cosa c'entra i capelli? Vabbè, comunque, non c'entra niente i capelli, hai ragione. Però lo voglio far notare. Oh, ragazzi, non mi piacciono quei capelli. Ma guardati i tuoi di capelli. Guardate come fa. Che cazzo i capelli c'ha Cruciani, che c'ha, come dice Mauro De Mantova. È il gatto morto in testa! È il gatto morto in testa! In quello c'ha ragione allora. Appunto, quindi guarda che capelli. Allora, lei si proclama femminista, è già inascoltabile, riformista e di sinistra. Vabbè, d'accordo. Ma la cosa incredibile è un'altra, è un'altra. Senti cosa diceva, sempre dalla Merlino, devo dire la verità. Senti cosa diceva anche lei sul fatto vince, e lei è una paladina del sì, la signora Fedeli. Senti. Io penso che il giorno dopo, se ha vinto il no, cosa che non mi auguro, perché se guardi il quesito è difficile che le persone vadano a dire no ad una cosa che è utile al paese, ma se il paese dice di no, tu ne devi prendere atto, non puoi andare avanti, perché non hai del a quesito... quel punto l'autorevolezza. Mi sembra molto chiaro, no? C'è qualcos'altro da aggiungere della Fedeli? Sentiamo ancora. Ed è giusto rimettere il mandato da parte del Premier, secondo me, ma anche con la consapevolezza dei parlamentari. Tolgo l'alibi a chi pensa, tanto stiamo lì fino al 2018, perché pensano alla propria sedia. Io non penso alla propria allora, sedia. Allora, sul quesito poi sedia. Ne parliamo. Perché... Io non penso alla mia sedia, è diventata ministro dell'istruzione. Ragazzi, ma questa è veramente una vergogna. Perché ha ragione Parenzo. Devo dirlo, ha ragione Parenzo. Non è manco una cosa che è stata estorta. Non è che uno gli è andato a chiedere lì: ah, ma lei si dimette, ah sì, forse sì. No, l'hanno detto tutto esatto. Loro. Hanno fatto tutto hanno loro fatto tutto da il solo. Neo ministro dell'istruzione fino a qualche giorno fa. Perché queste frasi non sono come quelle di Renzi di un anno fa, un anno e mezzo fa. Sono della fine di novembre. Cioè, alla fine di novembre, qualche giorno prima del referendum, il neo ministro dell'istruzione Fedeli diceva che non è che loro con la poltrona non c'entrano niente, che si devono dimettere pure i parlamentari, che devono andare via dalla politica, fanno che è un atto loro, di serietà. Ragazzi. E allora oggi si dovrebbe dimettere da ministro dell'istruzione. Non lo dimissioni, fanno loro, chiudiamo subito. Noi. Ah, no, ma che non, c'entra? Come? Chiudiamo ma perché noi devo chiudere io? Scusa, sì, se la Boschi è un gesto dimetta, eclatante, se la lo riprenderebbero tutti domani da Gospia, il governo ma non si dimette, la zanzara chiude. No, ma la Repubblica, Corriere, lo riprenderebbero tutti. Chiudiamo, se finché non si rimette, se non si rimette la Fedeli, chiudiamo. Questa è la mia proposta. Pagato, però voglio essere pagato. Quello è buono, pagato. Questo è buono, ora buono. Pagato. Pagato, perché pagato? Che cazzo vuol dire? Cazzo, se non vai in onda. Pagano, ho capito, scusami, questi continuano a vedere lo stipendio e sono pagati. Però c'è un'altra cosa. Io mi dimetto e non mi pagano. No, amico mio. Mamma mia, come sei attaccato a quattrino, amico mio. No, per carità, non sia mai. Non sia mai. Sai perché è attaccato? Sai perché? È ebreo. Eccolo là. Allora, Valeria Fedeli, neo ministro dell'istruzione, sulla proprio CV. Sul proprio CV si dice così, no? Sì, sì, come cazzo si dice? Il CV. Vabbè, non me ne... il curriculum. Curriculum vitae. Allora, Valeria Fedeli scrive laureata in scienze sociali. Stiamo parlando del ministro dell'istruzione, cioè non una passante qualsiasi. Laureata in scienze sociali. In realtà, non c'è nessuna laurea in scienze sociali. Quando lei ha ottenuto questo diploma, è appunto un diploma alla scuola per assistenti sociali UNSAS di Milano. Non c'è alcuna laurea. L'acronimo UNSAS sta per... Ma non lo so, una cazzo di scuola di Milano, scusate, vabbè, ma non ce l'ho con questa scuola di Milano. Appunto, no, non dire no così ma non perché... ce l'ho con la scuola, una cazzo di scuola per dire in generale. Laureata in scienze sociali, così dichiara lei, non è laureata. Ministro dell'istruzione dice di essere laureata. Non è laureata, è diplomata, ha preso un pezzo di carta alla scuola per assistenti sociali, che va benissimo, ognuno può prendere i pezzi di carta. Vabbè, adesso però il problema del governo non mi pare questo. Mio, però uno... Il problema principale di questo governo mi pare che ci sono delle persone. Un culo così al signor Giannino. Ma infatti, abbiamo fatto certo, un culo così. Nel merito, l'istruzione cambi sto cazzo di però, curriculum e dica sicuro, non sono laureata perché quello la senza laurea, ombra di dubbio. A me non me ne frega niente la laurea. Ma poi. No, ma ragazzi, ma il problema però oggi, questa è una questione stupida, ma macroscopica, eccetera. Microscopica. Ma la questione macroscopica è che ci sono dei ministri che non dovrebbero fare i ministri in questo momento, che hanno dei ruoli di governo, persone che direttamente hanno perso in prima persona quel referendum. Questo è il punto. Fermi tutti. Ma a me che me ne frega del traffico che sto sulle rive del fiume a cercare i nani. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta La Zanzara. Questa è una vergogna! È una vergogna! Oh, parliamo un po' di rom, va. Parliamo un po' di rom. Io non capisco se questo rap che va in onda, non so dove, sulle reti Mediaset, del tizio rom che canta, poi tra l'altro viene pure bippato, per cui non riesco a capire se è vero o non è vero questo rapper rom, che ritorna ogni tanto un rapper rom. Senti. Estate, tranquillo, tu va a mare. Io spacco di finestra e in casa entro a rubare. Prendo un gioiello, oro, televisione. Se arriva polizia, io scappo di balcone. Vivo in roulotte, vengo di Romania. Sto dentro un campo, in mezza porcheria. Io faccio finto usopo, in metropolitana. Ma vendo droga e armi, e ho pure di puttana. Amico, dammi spicci, non dire che non voglio. Non c'è nessun problema, ti rubo portafoglio. Faccio pirata, guido ubriaco, schiaccio la gente. Polizia, tanto non mi fa niente. Ho denti d'oro in bocca, mia moglie è una bambina. Me l'ha data mio amico, io ho dato cocaina. Abbiamo già una figlia, se ha fame chiedi latte. Ti punto una bottiglia, che prima terra sbatti. Rubo di auto, moto, figlioli. Vabbè, indovina che trasmissione era, caro Parenzo? Che trasmissione era, secondo te? Ma guarda, secondo me è dalla vostra parte. Non l'ho vista, ma credo sia dalla vostra parte, sì, Rete 4, sì. Dalla vostra parte. C'era anche Poletti che diceva: non possono prendere per il culo gli italiani così, non possono prendere per il culo. Senti il Polettone. Questo va preso e gli va fatto pagare il fatto del male che ha fatto la vostra comunità, perché non sono tutti così, e la sfrontatezza, perché va bene che siamo un paese dove tutto è possibile, ma venire a prendere per il culo gli italiani così non si deve fare! Magari questo rapper rom, ecco, che canta la ruffa popolo. Ma magari è italiano. La ruffa popolo. Magari è italiano, ma perché i rom sono italiani. Per me comunque non esiste, è un personaggio finto, eh. Scontro Pavlovic, l'amica tua Pavlovic e la sì? Santa anche sui Rom. Sempre la solita cosa. Con quelli che dicono i Rom sono quasi tutti ladri, cosa su cui io concordo, e quelli che dicono no, però si possono recuperare, si possono integrare, eccetera, eccetera. I signori Rom. Chiedo anch'io alla polizia di accertare se le cose che il ragazzo canta dice siano vere. Se non sono vere, passiamo a delle cose più importanti, per cortesia. Allora, prima Poletti diceva... Ma non sono vere, perché lei non sa che rubano, che stuprano, che entrano nelle case. Ma siamo qua a parlare di una ragazza ammazzata. Cioè, no, adesso lei ci dice, bisogna vedere se è vero. Cioè, se è vero che rubano, se è vero che stuprano... Quella persona che ha parlato nel campo, nel senso che ha detto una parola chiave, poveri contro i poveri, invece di mettersi tutti insieme e andare contro chi ha ridotto quei quartieri in quel modo. Poveri contro ladri, i poveri sono i nostri, quelli sono ladri, sì, nostri, non sono vostri, poveri, hanno il telefonino, sono hanno anni, le Mercedes, ma come non si, come hanno mai? I soldi, i poveri io sono so i nostri, quelli non sono lei, poveri. Io sono stata nei campi rom, ho visto quello che hanno, le macchine da 5.000 di cilindrata, i poveri sono gli italiani, ma questi no, poveri non sono. Dalla vostra parte. Ragazzi, non c'è più limite al peggio. No, non c'è limite al peggio. I vegani si incazzano anche. I vegani si incazzano anche sullo spot della Motta. Adesso io non lo mandiamo in onda perché ce ne fottiamo della questione della pubblicità, eccetera. Il panettone Motta ha fatto una bella pubblicità, secondo me. Adesso me ne manderanno 100, anzi, mandatemene 100. Un centinaio, va bene, un centinaio di panettoni. Che dici, Parenzo? Possiamo trattare con la Motta? In diretta? Però Pandoro, se fosse possibile. Tu Pandoro, 50 Pandori e 50 panettoni. Sì, signori perfetto della Motta, mandiamo in onda il vostro spot perché i vegani lo hanno attaccato. È uno spot abbastanza carino, secondo me. Dunque, via Lecchinaggio, posso via, ancora via, permettermi via, di comprare 50 il panettone? No, ma 50 e 50, va bene, dai, 50 e 50. Ma panettone, questi li mandano davvero. Panettone poi. Motta contro i vegani, ma non è in realtà contro i vegani. Senti, senti, questi se la sono presa pure con questi del panettone, amico mio. Per il nostro panettone noi di Motta avremmo potuto usare tofu tritato. Pappaiaia, seitan, alga essiccata, e cuocerlo per 30 secondi in microonde. E invece no, lo abbiamo preparato seguendo la nostra ricetta, originale dal 1919. Panettone Motta, da sempre quello di sempre. Da oggi, con bacche di goji! Scherzo. Non ho capito qual è il punto. Cioè, è molto divertente. Ma invece è stupendo, è stupendo. Adesso, per carità, ripeto, 100 panettoni va bene, 150, 100, 50 pandori, 50 panettoni. Adesso facciamo anche pubblicità, ma non ce ne frega niente. 50 panettoni, 50 pandori. Non ce ne fotte nulla a noi, non vogliamo nulla da Motta. 50 ma panettoni. Ma io no, ma compro. 50 e 50 va bene. Ma che se fai con 50 panettoni? Mi rimane di stomaco 50, poi. Regalo a tutti, faccio finta che li ho comprati, no? Cioè, ma la chiaro, gente lo a Natale sai, si fa così di solito. Tutto quello che ti arriva lo smisti facendo finta che te ne abbia comprato. Uno spilorcio a Natale. Scusa, tu i regali di Natale li fai o no? Mai, mai, riciclo tutto quello che io dicevo, riciclo. Ma che tutto. Sei proprio una brutta persona dentro. Io brutta, faccio sempre brutta, così. Sei come zio Paperone. Le tu poche zio Paperone? Stupendo, una montagna sei, di denari. Sei zio Paperone, sei. Vivi al freddo in quel castello. Beh, no, non spendi è vero, non c'è un nessun euro, castello, no. Spendi zero lire. Sei proprio zio Paperone, lo schifoso zio Paperone sei. Beh, un bel personaggio, zio Paperone mi piace. Però sì, sei zio Paperone. Cioè, tutte le cose che arrivano, le poche cose che mi regala, nessuno mi regala niente, ovviamente. Però le poche cose che mi regala, tipo i produttori, eccetera, eccetera, io riciclo tutto. Ovviamente qualcuno capisce che non è farina di mio sacco, però me ne fotto. Io dico, vabbè, tanto becca questa cosa. Che cazzo, dunque, signori della Motta, noi non vogliamo niente. 50 e 50 va bene, però è 50 e 50. Comunque, la cosa incredibile, ragazzi, è che i vegani si attaccano pure a questa roba qui. La gente sul web, animali vegani indignati, fate la pubblicità alle nostre spalle. Andate a farvi fottere. Andate a farvi fottere. I fruttariani dicono, ma è dopo i fruttariani, va? Che dici dopo i fruttariani? Stefano da Milano, Stefano da Milano, dai Stefano, Stefano. ciao a tutti. Dimmi, dimmi. Ascolta, io volevo capire perché ogni volta che qualcuno del Movimento 5 Stelle parla di primarie via web o votazioni via web, voi siete sempre diffidenti. Le primarie via web sono una puttanata, la posso dire io? Una puttanata, perché sono incontrollabili, non si possono controllare. Non è vero che sono incontrollabili, il sono web una puttanata. È utilizzato anche dai militari. Io, ma io lo dico. Di sicurezza utilizzati dai militari, Stefano, per verificare allora, l'identità delle persone. Le primarie via web sono una puttanata, lo posso dire io? Perché secondo me sono... Tutti? Ma no, ma per carità, uno può fare quello che vuole. Se non c'è un controllo, se non si riesce a architettare bene un controllo sulla regolarità... Ma architetture, questi sono strumenti di sicurezza che garantiscono... Vabbè, ma poi ognuno fa quello che vuole, ma io non dico che... Io, per me è una puttanata, ma ognuno... Anche i militari usano questi sistemi. Sì, Stefano, ognuno organizza le cose come vuole. Se gli piace a quelli fa le primarie su web, facessero su web, ma che me ne frega a me? Cioè, io dico, no, per me sono una puttanata. Dopodiché poi va bene tutto, ma perché puttana? Cosa cambia da andare a votare con la fedina? Programma condiviso sul web, ma che vuol dire il programma? Cioè non vuol dire nulla il programma condiviso sul web, al limite. Ma cosa vuol dire non vuol dire nulla? Sul web è scritto lì, scritto. Ma che è scritto? Condiviso non è che cosa? Ma dai su, scusa, Stefano. Tu, la tua proposta, le persone la leggono. Senti, dicono, no, non si può sfuggire alla realtà. In politica ci vuole, ma anche i 5 Stelle si sono resi a questo. Ci vuole il carisma. Ci vogliono quelli con la faccia come il culo. No, in politica un minimo di menzogne le dicono tutte. Allora, bisogna però avere del carisma. Cioè, in politica non si può sfuggire al fatto che un leader deve avere carisma. Che noi e Grillo, io lo dico da sempre. Grillo deve fare il leader del Movimento 5 Stelle e deve essere candidato alle elezioni politiche da premier, altrimenti è tutta una buffonata. Ciao. Luisa, tesoro? Sei tu Luisa? Tesoro? Ah, no, è la zanzara? Ah, vabbè, uguale. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Dalle periferie ripartiremo, faremo strada per strada, casa per casa. Parleremo con tutti, donne e uomini della città. Ho capito. Andremo a vedere gli asili nido, quanti sono, quali sono. Abdallah Kabakemji già scrive. Hai già l'appoggio delle comunità musulmane. Abbiamo vinto, abbiamo già vinto. E ripartiremo però simbolicamente dalle periferie. Quelle periferie che Bitonci voleva sulle quali Bitonci voleva investire dove non ha investito. Ritroveremo spazi. Ragazzi, siete tanti, lo so, ma ce la faremo, riconquisteremo questa città. Siamo qui a dire ricostruiremo Padova. Non si ferma l'ondata di persone per Parenzo, sindaco di Padova. Voi pensavate che ci eravamo fermati, no? C'è stato il referendum, ci sono state altre cose. E continua la produzione di spot. Noi ce ne fottiamo della par condicio. Ce ne fotteremo della par condicio, caro Parenzo. Ce ne fotteremo pur di arrivare al risultato. Violeremo ogni legge. Bravo, bravissimo. Violeremo ogni legge. Violerai ogni legge. Bravissimo, bravissimo. Perché bravissimo. Sono io, scusa. Tu violerai tu. Aspetta, io senti godrò questa. Del sostegno. Senti, dopodiché il referendum ci ha rafforzato. Il referendum ha rafforzato quella parte della città di Padova che vuole il cambiamento, che sono praticamente l'80.9%. Ma non è vero. Le ONG che coinvolgeremo, le organizzazioni non governative. Padova gemellata con Lampedusa, grande racconto popolare, una città che rinasce, Padova capitale della scienza, Padova capitale dell'accoglienza. Dei Rom, anche dei Rom si può dire. No, questo in campagna elettorale è meglio non dirlo. Senti però, senti. Sentiamo. Allora, Febal è forse il più famoso trans d'Italia. Posso dire che lei è una prostituta? Sì, sì, sì, certo. È una prostituta. E che cosa pensa del Family Day? La prostituzione non è un reato. A Padova c'è spazio per tutti, ma nel rispetto della legge, nel rispetto della legalità. Se uno dei tanti puttanieri del Nord-Est pensa di mettere piede a Padova e di fare merce, di usare allora il corpo del... verrà multato, identificato, spedita a casa la multa e fatto un grande cartello all'ingresso della città. C'è una Italia bella, ma non radical chic, snob, come dici tu, di tutto. Padova vi ospita, ma Padova non tollera il mercimonio della donna. Allora, siamo qui a dire: ricostruiremo Padova. Beh, dovresti ringraziare, Parenzo, queste persone, queste straordinarie persone che producono continuamente spot gratis, in tuo favore. Gratis, bravo, questo è imparato da ribadire sempre, gratis. Io non tirerò fuori una lira, un euro, niente, niente, bravissimo. Ti basta la radio, ti basta la radio. Apriamo? Apriamo le linee? Apri le porcelaie, apri le porcelaie. E andiamo con Edoardo da Roma, vai Edoardo, vai. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Vorrei parlare, ragazzi, comunque qui abbiamo, aspetta solo un secondo, voglio aggiungere una cosa per dare fuoco alle polveri. Ragazzi, stasera c'è Sgarbi a 8:30, Sì, qui abbiamo solamente un personaggio oggi, il nuovo ministro dell'istruzione, il quale ha mentito spudoratamente agli italiani, non sulla laurea, sul fatto che se ne sarebbe andata una volta perso il referendum, come Renzi, ecco, e come la Boschi punto, e come punto. Altri deputati del PD, e invece ha detto che lasciava la poltrona, invece ne occupa una molto più importante di quella che aveva questo prima. Il ministro dell'istruzione si dovrebbe dimettere domani mattina, dopo la frase pronunciata alla fine di novembre nella trasmissione della signora Merlino. E in più, questo lo deve chiarire, dice, scrive sul suo curriculum che è laureata e invece è solo diplomata. Per carità, a me non me ne frega nulla. Uno può anche essere senza laurea e essere un genio, come è il caso del signor Giannino, no, che noi abbiamo messo in croce. Noi mettemmo in croce. Allora si modifichi e si corregga il curriculum. Edoardo, vai. Ciao ragazzi, vorrei parlare velocemente di quella che è stata, secondo me, la reazione totalmente inappropriata da parte degli ospiti, dalla vostra parte, di buona parte della popolazione italiana. Mi riferisco a questa canzoncina che ha... Quella del rapper Rom, diciamo, no? Sia il rapper Bello Figo che il rapper Rom. Allora, sono due cose diverse però, Bello Figo esiste, in carne e ossa. Sono uguali, in realtà sono uguali, perché sono dei troll. Non sono troll. No, no, quello no. Bello Figo sicuramente no, il rapper Rom probabilmente sì, probabilmente non esiste. Il rapper romeno innanzitutto è un italiano che ha fatto una canzone su quello che è lo spot del cornetto Algida, non so se l'avete ricordato. Sì, come no, certo. L'ha fatto in rima ed è volutamente una presa per il culo. Ma appunto, ma si discuteva che era una presa per il culo, quello è un Rom, sì o no? È un Rom, è stato scoperto da Striscia la Notizia per primo. Certo che no, anche quello era un italiano. Quello... Ma che c'entra, i Rom sono italiani la maggior parte, che vuol dire? È un Rom come o no? Vuol dire che è una cosa che nasce come presa in giro, non come troll. Ma appunto, anche Bello come... Figo è una presa in giro, che vuol dire? Certo, quello che voglio dire mi meraviglio e mi spavento della reazione della Mussolini e di un sacco di Ma lì, scusami, lì è tutto costruito in questo modo. Dalla vostra parte dicono: facciamo sentire questa canzone del Rom. Uno che si indigna, uno che sia vero o no, non ha importanza. Forse non avete capito come funziona la storia. Cioè, che una cosa sia vera o no, non gliene frega un cazzo molto a nessuno. Molto grave questo. Molto cioè, grave. C'è un signore, un rapper. No, ma Edoardo, ma io sono d'accordo con te. Grave, molto grave. Ma che grave? Qual è lo spettacolo? Grave. Ma che dici? Ma è gravissimo. Sono cose. Vabbè, Maurizio da Firenze, dai, andiamo avanti. Bello Figo è vero in carne e ossa. Maurizio da Firenze. No, Bello Figo è vero, è uno che gioca su questa roba. Maurizio, vai. Sì, pronto. Dimmi. Buonasera, sì. Sono un portavoce del Movimento 5 Stelle. Sì, di dove? Scusa, portavoce allora, di chi? Di Firenze. Io devo fare una precisazione. Prima di sparare minchiate, quando non per si esempio? Fanno cose... Per esempio, sull'iscrizione alle votazioni del Movimento 5 Stelle bisognerebbe stare di molto zitti. Ma chi ha detto che non sono vere le certificazioni? Scusami. Ho sentito dire poco fa che non ho detto vero. Che la scelta per essere iscritti, ascolta, per essere iscritti sulla nostra base Rousseau bisogna mandare un documento di identità. Cioè, sì, ma beh, io... quella è la certificazione. Maurizio, io non ho detto che è falso. Non ho detto se che uno è... di voi, se uno di noi si iscrive, dare il documento, l'originale, no? L'originale. Sì, no, Maurizio, adesso ti sento male. Si sente male, dai. Nonostante il web, le cose così, si sente male. Però, Maurizio, scusami un attimo, io non ho detto che è tutto, è tutto falso. Ho detto che ci possono essere manipolazioni via internet, primo. Secondo, tant'è che sono dovuti arrivare ad una piattaforma per garantire la sicurezza, eccetera. Ho detto che la scelta di un leader attraverso delle primarie online mi sembra una puttanata. Totale. Sono padrone di dirlo oppure no? Oppure devo essere attaccato come uno che attacca i 5 Stelle? La selezione dei leader politici attraverso il web mi sembra una stronzata, lo posso dire, oppure c'è un attentato alla Costituzione? Maurizio, non ho capito. No, ma non è preciso. Ma è un'opinione, non è che è preciso o no. Ho detto certo, che è una sua opinione, la puoi chiedere. Certo, come assolutamente. Io ho quest'altra opinione, avendo salutato il prossimo. Vabbè, non si sente. Pino da Como, dai, Pino da Como. Buonasera. Dimmi, adesso, il complotto contro i 5 Stelle, perché ma non si sentiva, Maurizio, punto e basta. Pino, vai. Volevo dire questo, buonasera. Non è che io ho fatto una mezza idea, non è che questi signori facciamola diventare una, dai. Questi signori che appunto che sono stati rimessi come ministri e mica rivisti, ministri, potrebbero adottare la scusante di dire vabbè, ma noi ci siamo dimessi quando si è dimesso Renzi. Poi ci hanno richiamati e abbiamo di nuovo preso l'incarico. No, non ho capito una mazza. Cosa, cosa vuoi dire, Pino? Chiarisci bene cosa l'idea. Cosa sta voglio dicendo? Dire questo, voglio dire questo, che per prenderci per il culo per l'ennesima volta userebbero la scusante di dire ci siamo dimessi, però poi ci hanno richiamati e noi ci siamo ripresentati. Ma non si è dimesso nessuno. Ma non si è dimesso, solo Renzi. Ma scusa, quando se ne va Renzi non cade completamente tutto il governo, tutto quanto. Ma che vuol dire? Uno può accettare o meno, però. Appunto. Cioè, non è che uno è costretto ad accettare. No, ma appunto loro lo accettano perché si sentono patrioti, non sono stati richiamati. No, Pino, sono non ho capito quello nessuno che ha detto nulla non di ho tutto capito, questo, peraltro. Non ho capito quello che vuoi dire. Francamente non ho capito. Maurizio dalla provincia di Genova, chiarisci delle idee e poi richiamaci, altrimenti discutiamo sul nulla. Raffaele dalla provincia di Roma, dai. Raffaele. Pronto, eccomi qua, mi sentite? Poco, dimmi. Ecco, sto in viva voce perché sto guidando. Il discorso è questo, tutti hanno dato in viva voce ti attacchi. Gentiloni ottiene la fiducia, 368 sì. Vabbè, Raffaele, in viva voce ti attacchi, ti attacchi. Mirella da Genova, non mi interessa, troppo tardi. Mirella da Genova, dai. Pronto? Mirella, dimmi, cara Mirella, dimmi. Ecco, io sono quella che ha lanciato l'appello. Quale appello? Quale? Tanta gente che lancia. Quello del lavoro di Genova. Non mi ricordo, avevi lanciato un appello per trovare lavoro, va bene, d'accordo. Sì, sì, sì. Che lavoro volevi trovare? Ti ricordi che avevo detto che ero un'educatrice? Ah sì, avevi lasciato anche il tuo numero di telefono, giusto? In diretta. In diretta. Allora, quanti anni hai? Scusa Mirella, quanti anni hai? 59 anni. 59 anni, professione? Disoccupata. Educatrice. Educatrice disoccupata? Disoccupata. Come campi? Educatrice di che? Uno vuol dire... Uno... Allora, educatrice di cosa? Di nuovo questa domanda è lo so, mi sono dimenticato, amico mio. Educatrice che vuol dire? Disease, Cruciani. Allora, gli educatori sono quelle figure preposte a educare le persone. Sì, questo bambini, non c'è dubbio. Piccoli, nelle carceri. Sei disoccupata, va bene, hai lasciato il tuo numero di telefono e poi che è successo? Allora è successo che in tempo 36 ore hanno chiamato sui 250. Beh, normale, la forza della zanzara. Poi? Ecco, e allora i più tanti miserabili. La maggior parte dei più tanti, la maggior parte di questi cosa volevano? Sesso, naturalmente. Amica mia, ma di cosa ti stupisci? Gentaglia. Lasci il numero di telefono in diretta e pensi che la gente chiami per dirti sì, ecco Mirella, ti offro un posto da educatrice presso la scuola. Gentaglia, ma è maiali, normale, maiali, hai lasciato schifosi. Signor Parento, maiali, gentaglia, maiali, ma che gentaglia, maiali, gente maiali, normale. Maiali, maiali patentati. Ma manco li conoscono, Cruciani. Richiami, signora, richiami a ora di cena e magari risponde la moglie, dice sa, quel maiale di suo marito, Scusa Mirella, aspetta un attimo, che cosa cercano richiami, queste persone? Richiami, cosa richiami. Dicono al telefono? Cosa dicono? Allora, no, tutti molto gentili. Anzi, abbraccio tutti i camionisti che sono veri, cioè vanno. Beh, ho capito, perché ti volevano scopare, però, amica mia, volevano scopare. No, ma aspetta, ma perché poi la cosa bella è che ho ricevuto una proposta di matrimonio, al che non si capisce come mai un soggetto mi vorrebbe sposare, mai vista e mai conosciuta. Al beh, che c'è una tanta cosa... gente, guarda, c'è tanta gente. E poi la cosa che si sposa per corrispondenza, pensa a quelli che si sposano in carcere. Appunto, e poi un altro che addirittura offriva 500 euro. Per che cosa? E per appunto per fare sesso con lui. Ma, ma è una buona idea, scusa, non ho capito. Mirella, cara amica mia, sei disoccupata. Sei disoccupata. Ma sei fuori di te. Tu sei fuori di te. Sei disoccupata, Cruciani. Ma fatti un mese e guadagni 2-3 mila euro. Fuori di te, ma è ottimo! Ma vai tu! A istigazione alla prostituzione, cose. Eccoci qua, istigazione alla prostituzione, cara Mirella. Cruciani, io ti ho visto. Ma che c'entra che mi hai visto? Adesso che c'entro io? Io sto dicendo, hai bisogno di denaro, hai bisogno di soldi. E vai, no! No, volevo dire a tutte le persone che non ti conosco, io volevo vedere che faccia tu avevi, no? Allora? Perché sennò... Vabbè. Sei un po' brutto forte, ecco perché sei così fuori di testa. Vabbè, Mirella, 500 euro... Sei fuori di testa, Cruciani, 500... perché questo consiglio a chi potresti darlo? A te stesso. 500 euro, vai! Vai, diretta, vai! Vai, vai, vai, vai! Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero? Ripetiamolo. Di nuovo, vai il tuo numero. Non lo do più in diretta. Dallo il numero, tanto lo rimandiamo, dallo il numero. Dai il numero ma di nuovo. Dai il numero di nuovo, dai, se hai coraggio, magari arriva l'offerta giusta, lascia perdere la prostituzione, arriva l'offerta giusta, dallo. Ma... questa persona qua, Mirella, 59 anni, fa l'educatrice, numero di telefono, datele lavoro se avete coraggio, non fate proposte oscene. Allora, 345... Ma che stiamo nell'800? 345, poi? 94... 345, 94... 36... 132, ragazzi, registrate le telefonate che mandate e poi mandatecele al solito numero. Registratele e mandatecele. Mirella, sicuramente non ti arriveranno porci maiali, sono sicuro. Li hai visti? Ma chi? I nani. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, sono della Lega, ma ti voglio votare. Dimmi dove sto sbagliando, ti prego. Vota Parenzo. Parenzo, ce la faremo. Mi sono trovato in macchina con mia moglie e mi ha detto che è una radio schifosa. Viva Parenzo! Di Battista, voglio sentire Di Battista. Dibba. Detto Dibba. Se fossi cinico starei qui a guardarli, perché ogni giorno con Alfano agli esteri, la Boschi sottosegretaria aumenteranno i consensi al 5 Stelle. Se fossi cinico io comprerei soltanto i popcorn e vedrei questi ignobili personaggi mal governare l'Italia. Sono giochetti di squallidi malfattori della democrazia, cioè devo dosare bene le parole, di squallidi truffatori, di persone che non interessa nulla del popolo italiano. Questa signor Mentana, truffatori, malfattori, è stupendo. Poi accusano noi, capito? Cioè accusano noi di essere un po' sopra le righe. Qui abbiamo uno dei principali rappresentanti, io da un certo punto di vista sì, parte... il numero due, non lo sappiamo, è uguale. Ma io non mi stupisco più di nulla, sono degli osceni provocatori, intendono provocare il popolo italiano, io dico a tutti i cittadini che siano meno del 5 Stelle, non vi lasciate provocare da questi truffatori della democrazia. Ragazzi, la memoria è importante e dunque, come promesso, mettiamo quattro personaggi, di nuovo in ordine, ragazzi, bisogna sempre ricordarlo. Primo Renzi, vai con Renzi, vai! Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... la referendum... Ma non è che non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. Boschi! Ma se no. Renzi perde e se ne va e lascia la politica, lei lascia la politica o no? Sì, perché sì. Ovviamente è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Carbone, sempre Partito Democratico. Lei, se il referendum non passa, lascia la politica anche lei? No, ma ti posso dire una cosa? La risposta è sì e spiego anche perché. Ma posso dire una cosa? Dopodiché, se la Costituzione lei non riesce a cambiarla, dopodiché, se ne va a casa. Dopodiché entriamo nel mezzo. E certo che vado a casa, perché vuol dire che ho fallito. Io, grazie a Dio, non campo di politica. Io faccio altro nella vita. E sono una persona seria. E per me serietà in politica vuol dire promettere di fare le cose. Se le cose non ci riesco, non posso farle, faccio altro. Valeria Fedeli, nuovo ministro dell'istruzione, pochi giorni fa. Io penso che il giorno dopo, se ha vinto il no, cosa che non mi auguro, perché se guardi il quesito è difficile che le persone vadano a dire no ad una cosa che è utile al paese, ma se il paese dice di no, tu ne devi prendere atto, non puoi andare avanti, perché non hai, a quel punto l'autorevolezza. Ed è giusto rimettere il mandato da parte del Premier, secondo me, ma anche con la consapevolezza dei parlamentari. Tolgo l'alibi a chi pensa, tanto stiamo lì fino al 2018, perché pensano alla propria sedia. Io non penso alla propria sedia. Allora, sul quesito poi sedia. Ne parliamo. Non penso alla propria sedia, meno male che sia corretta alla fine. Neo ministro dell'istruzione che ci deve spiegare se si è laureato o meno. Ragazzi, queste cose qui le manderemo in onda finché mi pare, in realtà. Finché mi pare. Fabio da Padova, vai Fabio. Sì. Dimmi Fabio. Ciao ragazzi, allora mi rivolgo essenzialmente a Parenzo. Eccomi qua. Eccomi qua, ciao. Vai Fabio. Sono un tuo concittadino. Allora, io volevo... Sei in viva voce. No, adesso sono sulle scale, ma adesso... Vai, dimmi. Io volevo dire che a Parenzo in particolare, che... Sì. Sta nascendo a Padova, sì. Che viene lanciata il giorno 19 in municipio, una coalizione civica grande, grandissima, a parte la Padova 2020, sì. Che aveva già non ce ne frega niente, allora che volete fare? Okay. Molti, tutto si riunisce su un programma comune. Ma tu chi sei? Cosa hai fatto nella vita? Cosa sei? Io sono un ex consigliere comunale di Padova. Di che partito? Di Padova 2020, la 2020, civica sì. Che aveva... Di che partito? Padova 2020. Cosa vuoi da Parenzo? Candidarlo sindaco? Ma molte delle cose, non tutte, ma molte delle cose, certo. Che lui, di cui lui parla. Beh, abbiamo già abbiamo... No, ma troveremo una convergenza. Se lui ha voglia di venire e parlarci, guarda, grazie a tutti gli amici, troveremo una convergenza. Adesso dobbiamo fare qui le cose. Troveremo una convergenza sicuramente sul programma e ci riprenderemo la città. La città sarà liberata da Bitonci e ridaremo una speranza. Bravo. Esatto, ce la faremo. Siamo qua. Siamo razzista, siamo qui pronti a riprendere. Ragazzi, ma che dite? Siamo qui pronti a riprenderci la città. Incapace di governare, soprattutto incapace totalmente di la situazione delle strade, è un disastro. Ha distrutto, rasa al suolo. Vabbè, ragazzi, non rompete le palle. Riccardo da Bologna, dai. Città rasa al suolo, praticamente. Rasa al suolo. Vai. Pronto? Sì, dimmi. Ciao. Abito in una casa popolare a Bologna. Sì, allora? Avete mandato, credo venerdì, le parole che ha detto Gasparri, sì. Il fatto che bisognerebbe dare precedenza a chi risiede in Italia da 20 anni. Sì, allora? Io avrei un'idea sulla questione. Sì. Se si calcolasse in graduatoria semplicemente il numero di anni di residenza in Italia, sì. Sarebbe una legge laica, cioè una non lo so, regola Riccardo, laica. tu vuoi dire nell'assegnazione delle case popolari va data precedenza a chi è residente in Italia, chi è da più anni. Sì, esatto, a prescindere dal fatto non che lo sia so, italiano guarda, o meno. Non lo so, Riccardo. Ruggero da Padova, dai, Ruggero. Allora, buonasera a tutti. Dimmi, Ruggero. Io sono... Aspetta, fermo un attimo, fermo che prima dobbiamo chiamare Richard Benson, un attimo solo. La Zanzara. Allora ragazzi, domenica, caro Parenzo, c'è una specie di evento, concerto per dare soldi a Richard Benson. Io proverei a fare una telefonata. Proviamo. Per promuovere l'evento, direi. Ma ha bisogno di soldi, sempre quello lì. Sì, sempre bisogno di soldi. Allora. Ma anch'io ho bisogno di soldi. Va, ti devo dire. È pure. What are you waiting for? What do you think you were waiting for? Caro Richard, buonasera, qui la Zanzara, come stai? Meglio. Meglio, meno male, siamo tutti contenti. Cioè, il cuore va meglio? Il cuore va meglio. Va meglio. Allora, noi vogliamo fare una cosa molto semplice. Domenica c'è un grande concerto. Facciamo questo annuncio soprattutto per raccogliere soldi, immagino, no? Sì. Dov'è questo concerto? Dove si terrà? Allora, si terrà all'Orion a Ciampino. A Ciampino? Domenica 18 dicembre. Alle ore? Sempre alle ore 18. Allora, ragazzi, andate in massa, vi dico, andate in massa, giusto, Richard? Sì, sì, giusto. Bello questo annuncio. Andate in massa senza perché... polli, senza no, no, no, polli. No, quello non lo so, quello non lo so. Vediamo, adesso ce lo racconterà Richard che cosa ha intenzione di fare. Andate in massa perché c'è un grande concerto di Richard Benson. Sì, assolutamente. Una nuova, si può dire un nuovo inizio, Richard, oppure no? Beh, non è proprio un concerto, eh. E che cos'è, scusami? Ci sono tanti gruppi che suonano per me. Ah, ok, cantano gli altri. E poi io alla fine, come ho fatto l'altra sera, sì, in un altro locale mi presento, sì, e suono e canto. T'hai cantato con chi? Ricordiamolo, ricordiamo. No, ho fatto da spalla ai Kiss. Ai Kiss, certo. Ai Queen, con Queen? Adam Lambert alla voce. Ma sei cantato proprio con i Queen? Sì, di spalle, sì, sì, sì, di spalle. E Obama pure, di spalle, cioè, in questo caso hai citato anche Obama di recente, che è successo? Certo, siamo molto amici io, con Obama, Obama, Presidente Obama. Con Obama. Sì. E quando è che l'hai visto, scusa? 2 anni fa. Ah, e che vi siete detti? Però ci sentiamo spesso per telefono, sì. Poi lui si è messo al sax, io alla chitarra. Va bene, e due... Ma qua, il Presidente Obama... Del governo americano, al basso della batteria. Ma questo... Rock and Roll Band of the President. Beh, sì. Non è uscita la notizia, strano, però... Scusa, Obama ha cantato con te, praticamente. Sì. No, lui ha suonato il sax. Ha suonato il sax. Lui è un ottimo sassofonista, Obama. Ho capito. Beh, mi... Quindi, scusi, perché, allora, no, però diciamolo, cosa ha cantato? I Nani anche Obama, no? Non ha cantato, no, i Nani, no, no, in inglese, no, no, quello, come si dice in inglese nano? Dwarf. Diciamola tutta, Richard, io sono vivo, urliamolo in previsione di domenica, io sono vivo, diciamolo, forte. Io sono vivo! Ehi! No, aspetta, aspetta. Oh, oh, oh! Aspetta. Mica si ferma. Questo è importante, però, eh. Ma che è successo? Beh, mi che sembra meraviglia. Che c'è. Mi sembra che sia la dimostrazione più efficace, caro Richard. Mi sembra che sia la dimostrazione più efficace. Più efficace. E ricordati anche una cosa. Mi devo ricordare. Ho vinto come più veloce chitarrista questo al mondo. Sì, sì, sì. A Guitar Wars a Los Angeles, arrivando numero uno tra i vari concorrenti. Infatti mi hanno regalato la chitarra di Michael Angelo Basio, che sarebbe il chitarrista più veloce al mondo. Anche Trump è un uomo di spettacolo, comunque, anche il signor Trump. Ti piace il signor Trump? No, non mi piace per niente. Trump. Bravo, meno non male. Ti piace proprio Trump. Meno male, meno non male. Ti piace. Che ti no, sembra? Hai visto? Lui è un malfattore. Malfattore, malfattore, bravo, su questo siamo d'accordo. Io hai visto, maestro? Sì, il governo. Segreti. Sì? Ah, sai tutti i segreti di Trump. Ma che dici? Cioè, in che senso i segreti di Trump? Spiegami, che sai di Trump? Beh, di tutte le donne che ha avuto di nascosto. Beh, quello si sa. Ma su tutto c'è male, tante altre cose. C'è un malfattore, un bandito, dici? Un bandito vero e proprio? No, non è proprio un bandito. È un malfattore. Uno che c'ha un sacco di soldi. Questo si sa, però è abbastanza noto. Ha avuto tantissime donne, ha fatto bene. Si sa pure quello. Ma è tutto scritto sui giornali. Ha avuto anche un rapporto con Lori del Santo. Ma quello si sapeva anche quello. Ma è tutto scritto sui giornali! Si sapeva. Cosa? Quello. No, dico, è tutto. Sono cose che si sanno, Richard. Sì, infatti. Sì. Quanti soldi siamo arrivati nella raccolta di fondi? Ecco, meno male. Saranno arrivati circa 3.000 euro. Ma erano 5.000 prima. Però, erano 5.000 prima. Sì, capisci, non c'è certezza. Cioè, avete speso già 2.000 euro, no? No. Ma di quanti soldi hai bisogno per campare? Diciamola tutta. L'altra volta hai detto 3.000 euro. Non saranno un po' troppi? La gente si incazza. Uno dice, com'è che devo dare i soldi a Richard Benson mentre ci stanno i barboni per strada? Dammi una ragione per cui una persona deve dare i soldi a te invece che a un barbone. Ma no, ma ecco. Detto in maniera chiara, perché molta gente ci ha chiamato, noi siamo dalla parte tua, dicendo, perché devo dare i soldi a Richard Benson e a un barbone per strada? Sì, non c'è motivo. Pronto? Che ne so. Ma io manco, infatti, però così, perché io so io e gli altri non sono cazzo, che ne so. Forse per quello. Forse sarà per quello. Non so che dire. Lo so. Ma tu, il governo Gentiloni, ecco, hai nomi... appunto, che cosa ne pensi del governo appena nato? Chi conosci poi al governo, soprattutto? Gentiloni lo conosci, no? No, non conosco nessuno. Non mi occupo di politica. Non te ne frega un cazzo del governo Gentiloni? No, non me ne frega un emerito cazzo. Vabbè, adesso però questo mi pare un giudizio. Senti, così. Senti, un'ultima cosa, Richard. Questo è fondamentale. Praticamente siamo stati invasi da persone che sono ormai malate dei nani. Non è che possiamo fare i nani in diretta, sì, qui un attimo, bisogna quello per forza, dai. I nani. Sì. Li avete visti sulle rive del fiume. Beh, tutti insieme adesso, ragazzi. Parenzo, io e te. I nani. Li avete visti a Palazzo Chigi. Li avete visti sulle rive del fiume. Scusa, per curiosità, ma chi so... Chi è l'altra? Ecco, okay. Esther, vai, vieni, Esther, vieni anche tu. Vieni fuori le tette, avanti. Esther, vieni anche tu, vai. Spogliamoci nudi. Pronto? Esther, vieni, sì, anche tu, eccola, vai. Qua. I nani. A tempo però devi andare. Sì, scusa. I nani. Li avete visti sulle rive del fiume. Ma chi sono sti nani alla fine? Ma chi sono sti nani? Sono sti nani? Gli elfi, gli leoni, i gobelini, i coboldi. Sì, ma nel mondo di oggi. La canfora, la betulla, le ossa dei morti tirate contro il nemico. Ma nella metafora del mondo di oggi, ecco, chi sono, esatto, sì, chi sono? I 5 Stelle, Alfano? Questo non lo so, questo lo saprà Richard, che è lui. Passamelo, va, così lo sa. Richard, che cerchiamo di fare l'esegesi. Ciao, Esther! Saluto tutti quanti gli ascoltatori. Sì, ciao. Bene. Ciao, sempre, ciao, molto sempre bene. Con le zinne fuori, Esther, ecco, mi raccomando. Sì, va bene. Sono cadenti, ragazzi. Sono cadenti. Ormai sono vecchietta. A me mi piacciono pure i cadenti, hai detto, che devo fare? Ma ragazzi, ma che mondo è? Ma che mondo è? Ciao. Ma è la radio di Boccia, ma che mondo è, ragazzi? Oh, è la radio della Confindustria. Richard, sei il numero uno, sempre il numero uno. Senti, vabbè, ha detto Esther che chi sono i nani moderni? I nani di oggi, chi sono? Della politica, della contemporaneità. Chi sono i nani? Però, chi ne so io? No, così facciamo il No, non so, vabbè, perché se non sei tu, La Boschi, la Banca Etruria. Ma non sa chi è la Boschi, che gli frega della Boschi, sa. Dai, che gli frega della Boschi a Richard, dai, su. Comunque i nani. Il pezzo è molto semplice, l'ho scritto in 2 minuti e mezzo. Oggi quante medicine hai preso oggi, Richard? Diverse medicine ho preso oggi. Però mi raccomando, col cuore, mi raccomando, facciamo, sì, un ultimo saluto, amico mio, un ultimo. Aspirina, lo so, l'Asix, sì, poi Ether, Petrotol, sì. Panctor, poi. Tante medicine. Finiamo con l'urlo, vai con l'urlo, che è il tuo timbro. Vai, salutiamo gli ascoltatori con l'urlo. Vai, Richard, vai. Salutiamo gli ascoltatori con l'urlo, allora. Sì. Sì, vai. Oh. 1, 2, 3. Aspetta. Beh, no. Oh. Ma questo sta male, no? Sì, vabbè, aspetta. Basta adesso, muore, se no. Vabbè, ho capito, però. Beh, che è successo? Ma adesso, però, ossigeno, duro, deve pagare per se ti sta... Vabbè, ok. Hai avuto ragione, lei. Da noi è gratis. Ma che tu pagheresti per sentire questo? Scusami, li dice. Li avete visti sulle... Li avete... avete visti sulle rive del fiume. Comunque anche l'urlo dei polli non era mai. Avete visti. Ecco l'altra dietro. Lì avete ragazzi, visti. Che famiglia però, ragazzi. Lì avete visti. Ma uno non è che sulle rive. Quanto paga uno per sentire urla? Scusami, detto. L'ultima cosa, pure il pollo non era male l'urlo del pollo, eh. Il pollo! Non era male il pollo, amico mio. Anche il pollo non è male. Lo so che forse non ce la fai adesso, ma tu sei indistruttibile. Ce la farai anche a concludere col pollo. In che senso? Il pollo? No, dico l'urlo del pollo. Dico l'urlo del pollo, capito? Anche quello non era... mi va di farlo. No, quello non si può fare. Ciao, amico mio. Ciao, ti abbraccio. Forza Richard allora, Benson. Ciao a tutti. Forza Richard Benson. Ciao, fratello. Forza Richard Benson. Vai alla grande, ragazzi. Grazie. Ciao, ciao, ciao, Richard. Ciao, ciao fratello. Ciao. Ciao. Ciao. Ma guarda che cosa, una cosa pazzesca, dai. Ma adesso tu ti immagini, ad esempio, i nani, dire... i nani. Però visto, lì, in realtà della i nani... gente, ma... Sì, sì, l'urlo è pazzesco. Ma che è malato... i dirigenti della Confindustria allora, che salgono in macchina, si stanno spicciando dopo dalle risate. Un consiglio d'amministrazione, ma dicono, si stanno spicciando dalle risate. Vediamo un po' il governo in questi giorni, che è successo alla Camera, e sentono quello che urla. Ma che roba è? Non solo dice a me del governo non me ne frega, ma un emerito cazzo. Sì, anche quella valutazione lì che ha fatto, una valutazione così. Ma io non lo so. Fermi tutti, torniamo. La zanzara. Allora ragazzi, andiamo a Latina. Franco, vai Franco, vai Franco, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi Franco, dimmi. Bravo, Richard Benson, bravissimo. Vai, dimmi Richard. Franco, dimmi. Richard numero uno, dai, numero uno. Dimmi. Numero uno di merda, di che, merda. Che vuol dire numero uno di merda? Ce le mando io, io ho 64 anni, non posso andare in pensione perché mi mancano 5 anni per andare in pensione, no? E che vuoi da me? Che voglio? Un cazzo, non voglio niente da te. Io voglio solo da Parenzo, no? Parenzo. Che c'entra Parenzo? Ma adesso responsabilità pure la tua Parenzo c'entra e come? Perché c'entra? Sentiamo. Perché te lo dico io, sono italiano. E io chi se ne frega? E allora? Io sono nato a Tripoli, non ho avuto da genitori italiani, non ho avuto mai nessun cazzo di agevolazione. Ma che vuol dire? Spiegami, Franco. Qual è il paragone che fai? Perché ce l'ha con me questo garbato signore? Perché? Sei tripolino. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Sei tripolino. Allora... Sei tripolino. A me, sai, un altro anno forse con l'APE sociale vado in pensione con 600 euro. Io vedo i migranti. Io non mi posso comprare un letto di mortadella. I migranti hanno i smartphone da 500 euro. Che c'hanno? Ma che lo smartphone da 500 euro c'hanno? Ma adesso 500 euro, magari sarà da 30 euro, da 40 euro. Ma dimmelo tu dove si compra un smartphone da 500 euro. Io ho un telefono da 20 euro perché mi devo chiamare per andare a lavorare, capito? Io sono italiano. E allora? E sono trattato da merda. Ma che c'entra, Parenzo? Che c'entra Parenzo? Che c'entra Parenzo? Qua a Latina ci sono due famiglie di rom che dettano legge dappertutto. E chi sono questi? Chi sono? Te lo devo dire io. Dimmelo chi sono, dillo. Bello, parla forte come ti sentivo prima, che si sentiva benissimo. Dimmelo, Franco, chi sono questi qua? Oh. Le famiglie rom. Sì, chi è che domina? Chi sono queste famiglie rom? Due famiglie rom dominano. Come si chiamano di cognome, cazzo? Si chiamano Fame. Fame che c'entra? Fame è quella che c'hai tu, la fame. Ecco, io c'ho la fame. È questo che volevo far sapere. Cioè, io. Significa che allora sei morto di fame? Significa che sei morto di fame? Sì, sono morto di fame, perché è una vergogna. No, non è nessuna vergogna, però sei morto di fame. No, dillo, io sono morto... No, non me ne... A te, sai che cosa ti fa notizia, a te? Che cosa? A te ti fa notizia. Gentiloni ti fa notizia. Gentiloni, che c'è? Fa notizia comunque, a prescindere da me, Gentiloni. Presidente del Consiglio... Di un italiano che muore di fame. Ma perché non tu muori di fame? Sì, io sto morendo di fame. C'è questa rabbia sociale. Scusa, come fai a chiamare? Scusa, no, ma incredibile. Lo sai che cosa, No, la cosa incredibile è tu chiami col telefono qui e dici io sto morendo di fame. Io ho il telefono da 20 euro e sto chiamando perché non pago, capito? E stai morendo di fame, stasera che mangi? Mi sono mangiato un panino con la mortadella perché sono E gli immigrati? E gli immigrati? Gli immigrati hanno lo smartphone da 500 euro, vedo io. Ma non hanno, ma che mangiano? Non hanno lo smartphone da 500 euro. Non dica. Lo sai dove stanno la Dina? Non so Milano, che poi lo chiama Poletti dalla vostra parte. Ce lo ritroviamo questo qua. Dove stanno? All'Hotel della Ville. Hotel della Ville, sì. Alla Dina, all'Hotel della Ville. E faccio pure tu. Io non mi posso permettere manco di avvicinarmi a quell'hotel. Scusami un attimo, Franco, ma loro che mangiano la sera gli immigrati? A tavola, che mangiano? Informazioni di sto. Gli immigrati mangiano dentro il ristorante d'albergo. Che cazzo sei di? Che danno da mangiare? Che danno da mangiare gli immigrati? Informazioni distorte vengono date, distorte, caro. Bastardo, ma con chi ce l'ha? Ma con chi ce l'ha? Chi? Ma con chi ce l'ha? Vieni a vedere. Lo sai? No, guardi, cittadino, mi scusi, ci sono cittadino. Vengono date informazioni distorte attorno a questo tema. E fa la Roma dove io non posso comprare un cazzo. Come si chiama questo? Loro vanno a fare la spesa. Come si chiama sto supermercato? Panaroma. Panaroma. Panorama. Panorama, no Panaroma. Cioè, io dico Panaroma perché... Vabbè, Franco, Panorama si chiama, no Panaroma. Sì, Panaroma sì. Sembra una io marca del gelato. Io non mi posso permettere di fare la spesa là. Loro ci vanno. Mamma loro mia, che vanno. Schifo, capito? Che schifo, che schifo. Ma che cosa schifo. Dici? Schifo che io faccio schifo. No, loro, la situazione è uno schifo. Io sono Tripolino, figlio di italiani. Non vabbè, Tripolino, ho capito, Franco, che... Ma non hai avuto un cazzo, vabbè, che Parenzo che c'entra, Parenzo? Parenzo che sempre dice, aiutiamo, ma a me chi cazzo mi aiuta a me? Ma Franco, ma come l'hai caricato? No, io non l'ho caricato. A me chi mi aiuta? Adesso ho due bollette da pagare, non le pago, mi stacco la cuore, chi cazzo mi aiuta a me? Ma stai calmo, Franco, stai... Perché non dite mai... Aiutiamoli. Sai chi sembra? Sembra finto. Aiutata sta gente, effettivamente. Cioè, questo è chiaro, non è una guerra tra poveri. Sembra finto questo qua, sembra finto. Due famiglie di nome che detto la legge. Cosa vuoi dire a Gentiloni? Pezzo di merda. Ma no, vabbè, non sei vero. A me non mi posso fare niente, io non c'ho più gas. No, che ma perché deve dire così? Cosa c'entra? Ma non è vero, è finto. Ho scoperto che mi sono reso conto che è finto. Sei finto. Carmelo d'Agrigento, questo è finto come i cosi, come le monete da 3 euro che non esistono, appunto. Carmelo d'Agrigento, dai. Certo, però intervenire dopo Franco, insomma. Ah, Franco è finto, dai, un troll. Cioè, solo che vengono a rubare a casa dei ladri, capito? Perché da qui non si entra come troll, perché solo le persone vere hanno dignità di esistenza qui, capito? Cioè, i troll, noi li scopriamo subito. Vengono subito alla luce i troll, perché noi siamo come loro un po'. Carmelo, vai. Allora, argomento Angelino. Ma com'è che ha superato De Gasperi come giorni di ministeri? Devo dire la verità, il Quid è una domanda interessante questa, Carmelo. Tu sei della stessa provincia o città di Alfano. Allora, signor Alfano, Berlusconi una volta disse che non aveva il Quid. Beh, devo dire la verità che in realtà il Quid per ce l'ha. Per fare il leader, infatti, in realtà il Quid ce l'ha nell'occupazione delle poltrone. Su questo non c'è dubbio. Beh, il Quid per l'occupazione delle poltrone. Sì, è incredibile, abbastanza incredibile. Devo dire che ci vuole una certa scaltrezza, una certa furbizia politica. Perché uno che ha un partito praticamente del nulla, inesistente, non sa bene da chi è composto. Beh, il Parlamento c'è, quindi esiste. Ma, ragazzi, sì, come? Ma non si può dire solo una cosa del genere. Ma tu te ne immagini, noi rappresentati all'estero, la signora Angelina Alfano, adesso va bene tutto. Esatto. Ma non è possibile. Possibile una cosa di questo tipo. Ma caro, non solo, vi dico di più, ad Agrigento, così come in Sicilia, in tutte le parti della Sicilia, lui non può comunque presediare a qualche riunione perché lo mandano a calci. Quindi ma no, dico, ma questo non è vero, adesso non è vero. Qualche consenso ce l'ha pure lì ad Agrigento, resiste sempre la vecchia DC, i vecchi voti di clientela o non solo clientela, guarda, ma sto dicendo non di... lui non ne ha nemmeno uno. Può essere. Carmelo, ciao. Ragazzi, ho visto cose, ho sentito cose. dalla D'Urso, sempre dalla D'Urso, succede di tutto dalla D'Urso. C'erano personaggi amanti dei cani, amanti dei cani. Beh, questo è normale. Vabbè, è normale. Che fanno indossare, per esempio, lo smoking e il cashmere zibellinato. No, senti, no, ti prego. No, ti prego. Senti, uno si chiama Lovero, non so come. Ma non è importante come si chiamano. Esistono persone che fanno indossare lo smoking e il cashmere. Poi dicono: amo gli animali. No, li odi! Non li ami, li odi. Queste persone odiano gli animali, non li amano. Cioè, se uno veste di cashmere il cane, smette il. Lo smoking al cane, tu odi l'animale, non sì, lo ami, ami sono te stesso. D'accordo con te anche su questo. E cioè, tu vedi quell'animale e è vorresti... una proiezione di te. Sì, bravo, è così. Sì, no, molto giusto, questo bravo, giusto. Finiamo qua. Perché è bello finire su cose intelligenti. Ma perché devi finire sempre? Oggi sei fissato, finiamo qua. Andiamo perché? A casa, perché è più bello, fidati, perché rilasci le emozioni, dici, caspita, perché hanno finito prima oggi? Mamma vai, mia, vai, in polemica col governo. Arturo allo smoking per Capodanno. Il cappottino è di cashmere zibellinato. Il cappottino di cashmere zibellinato? Sì? Spero ecco. Finto. Beh, dimmi certo. Che è finto, finto. Assolutamente ecologico. Zibellinato. E sotto allo smoking? Allo smoking? Sotto allo smoking? Allo sì. Smoking. Adesso ve lo faccio vedere. Il Capodanno, sì. Ecco. Col pantalone? No, col sì. Pantalone. Aspetta no, che la coda... Aspetta. Però... Col pantalone e il farfallino Arturo. Ecco. Il pisellino fuori. Sì, perché è in calore cica, quindi io riprenderei Arturo, lo metterei nel suo passeggino molto sobrio. Molto sobrio il passeggino di Arturo. Che Igor, se non sbaglio, disegna proprio le cravatte per il suo cane, ho capito bene, no, Igor? Allora è di parte. Sì. Sì, no, hai capito benissimo, disegno le cravatte, l'unico vezzo che io gli concedo alla fine, no, perché poi sono tessuti morbidi, non cravatta. Ci sono campanelli, quindi non ci sono rumori, perché loro sono molto sensibili all'udito, quindi non ci sono campanelli. Queste invece sono le versioni animalier, un pochino più aggressive per dei pomeriggio, delle serate. Io lo porto sempre con me, Byron dorme sul suo cuscino, anche sul mio letto, un po' come mio zio Alberto Sordi. Scusa. L'ultimo che avete sentito era Igor Righetti, conduttore radiofonico. Disegno cravatte per il mio cane. Il vero Loden, guarda con la coda, guarda che gli ha preso, fantastico. No, gliel'ho fatto fare. Cos'è? Gliel'ho fatto fare. Ah, gliel'hai fatto fare apposta, certo. Questo. Guardate così, quest'altro che è? Questo è un tweed, questo è un con il tessuto di Gucci. Gucci, vedete? Oh, questo è di Gucci. Okay. Ecco qui. Ragazzi, però non è possibile. C'è il mio amico Bagatta che mi manda le foto del suo cane, Bagattone, l'ottimo Bagatta. Del suo bassotto, ottimo. Ormai conosciutissimo, perché spesso è su Radio DJ a fare casino con questo cane, e che ha indosso una maglietta da basket. Ma cosa c'entra con questo? Non metterebbe mai Bagatta, mica è matto, ama gli animali secondo me in modo sconsiderato, ma non metterebbe mai un giacchettino di cashmere, no, non credo. O che ne so, un tweed in tessuto Gucci, o per esempio uno Chanel come quest'altro. Questi sono malati. Cioè, queste persone sono malate, non vogliono bene gli animali, non gliene frega un cazzo gli animali, vogliono bene solo a se stessi, e stanno bene con se stessi se vedono il loro animale vestito in questo modo. Sono malati di mente. Diciamola tutta, malati. Ha cambiato il vestito ad Arturo, qui in diretta. Cosa gli hai messo? Cos'è? Chanel. Cos'è? Chanel. Quindi con Chanel. Mantella con... Ma è Chanel. Ciao Arturo, tessuto amore. Tessuto Chanel. Ma è proprio Chanel veramente? Tessuto Chanel veramente. Tessuto Chanel. È un bouclé. Ecco. Bouclé Chanel. Vestito Chanel. Bravo. Con farfallino per Capodanno. Ragazzi, fermiamoci un attimo, perché questa cosa qui mi fanno venire il mal di stomaco. Cioè, veramente, mi fanno montare la rabbia, perché non me ne frega niente. Ognuno può fare quello che vuole col proprio cane. Però mi dispiace perché uno dice: io sono un amante degli animali. No, amico mio, no, non è così. Ami solo te stesso, ed è giusto che ami se stesso, ma non dare agli animali questa disgrazia di volersi vestire con un tweed, con la cravattina per i cani. È una cosa dannosa. Stai commettendo un delitto. Sì, andresti denunciato. No, stai umiliando il cane. Andresti denunciato dagli stessi animalisti che ci rompono tanto. Sì, bravo, giusto, questo è giusto. E com'è bello viaggiare sentendo la zanzara. La zanzara. Ma perché, dopo che hai lavorato intensamente tutto il giorno e ti sei incazzato dalla mattina alla sera, ascolti Parenzo e ti viene il sangue agli occhi dalla rabbia? Ma vaffanculo, cazzo! Sentire quello che dicono nel mio taxi su di te, altro che cacciarle via, li manderesti alla ghigliottina, cazzo, tutto quello che ti dicono. Altro che dire delle puttane, l'odio l'avete messo voi! L'avete fatto nascere voi l'odio, accogliendo tutta sta merda dall'estero. Nomeno Parenzo, capito? Col suo bel vino, il suo sigaro, il camino che scoppietta, il sapore dell'inverno. Ma vai a fare in culo, qui c'è gente che non arriva alla fine del mese, finto proletario, tu non sei come noi, non sei come noi, astronzo! Cruciani, stavo ascoltando il podcast nel quale Parenzo attacca quel povero disgraziato di San Basilio. Io non mi voglio incazzare, voglio stare tranquillo, ma mi verrebbe da chiedere a quel pezzo di merda di Parenzo se avrebbe reagito allo stesso modo se quelli che sono stati mandati via fossero stati dei negri! Ferme! Ieri ho preso la mia seconda laurea e ho pensato: Parenzo non ne ha nemmeno una e in una vita intera guadagnerà 10 volte quello che guadagnerò io. Bella vita di merda. Cruciani, abbiamo appena finito di fare l'amore e io al mio ragazzo ho detto: traffico! Ti ama Giuseppe, ama solo te. La zanzara. Io ripeto, ad eterna memoria, non vi annoierò, non vi voglio annoiare. Partiamo però questa volta dall'ultima cosa, Valeria Fedeli, neo ministro dell'istruzione. Ancora non si sa se è veramente laureata o no. Da stamattina che abbiamo saputo la notizia che nel suo curriculum c'è scritto sì, laureata in scienze sociali, in realtà ha preso un diploma, anni fa, perché non è di primo pelo, come dire. A parte i capelli, che per me sono inguardabili, sembrano i bigodini di mia nonna. Però questi elementi, ragazzi, ma a me non mi piacciono quei capelli. Ma che non devo si fare? Può attaccare sul piano personale la signora. Hai ragione, la però i capelli Fedeli sono inguardabili. Che ti devo dire? Ma tu per me sei i capelli sono inguardabili anche. Eppure qualcuno ti reputa una persona. Ma non è il problema i capelli. Il problema è che ci sono delle persone abusive. Non si capisce perché la Boschi, che è stata una delle protagoniste andare della sconfitta, è rientrata. Fammi andare per ordine. Questo per è il problema, non i capelli della Fedeli. Fammi andare per ordine. Allora, fammi arrabbiare. Neo ministro dell'istruzione, primo deve chiarire se ha una laurea, essendo ministro dell'istruzione, bene, è importante, sì, no? È importante. Sì, però rispetto a tutto il resto, è una, aspetta, un fatterello. Qualche giorno fa, il suddetto ministro dell'istruzione, lo ripeto per l'ennesima volta, il suddetto ministro dell'istruzione, la signora Fedeli, Valeria Fedeli, Fedeli, che è passata dalla CGIL a Renzi, aveva detto che non solo Renzi avrebbe lasciato la politica, e questo ormai si sa, l'abbiamo ridetto fino all'infinito, e continueremo a dirlo, ma anche lei. Anche lei ha detto: no, noi i posti no, non siamo attaccati alla poltrona. Noi non siamo attaccati alla poltrona, anche i parlamentari devono dimettersi. Chi ha votato? Vabbè, sentiamo, che è meglio, sentiamo. Ed è giusto rimettere il mandato da parte del Premier, secondo me, ma anche con la consapevolezza dei parlamentari. Tolgo l'alibi a chi pensa, tanto stiamo lì fino al 2018, perché pensano alla propria sedia. Io non penso alla propria sedia. Sul quesito poi sedia ne parliamo. Mi sembra molto chiaro. C'è anche Carbone, voglio ricordare anche il tuo amico Carbone, perché anche lui disse: ragazzi, qui è un profluvio di gente che da sola, senza essere sollecitate. E questo è incredibile. Carbone. Lei, se il referendum non passa, lascia la politica anche lei? No, ma ti posso dire una cosa? La risposta è sì e spiego anche perché. Non si deve un momento. Ma aspettate, ma posso dire una cosa? Ma posso dire una cosa? Se la Costituzione lei non riesce a cambiarla, se ne va a casa. Dopodiché entriamo nel mezzo. E certo che vado a casa, perché vuol dire che ho fallito. Io, grazie a Dio, non campo di politica. Io faccio altro nella vita. È sempre così, dicono tutti così, eh. È con noi uno dei più grandi antinanziani della storia, Luca Telese, uno che ha uno di quelli che ha deciso il grande referendum ritorno. Con una sua grande campagna personale. Come l'urlo di Benson. Vabbè, con te sfondo una porta aperta, caro Luca. Sì. L'ultimo esempio è quello della Fedeli. Amico mio, cosa c'è da aggiungere più di quello che abbiamo detto? Dimmi cosa qualcosa vuoi? Di originale, dimmi qualcosa di... Aspetta, non te sentiamo, parla a voce alta, parla a voce alta. In un articolo di Alessandro De Angeli su Huffington Post, la Fedeli viene captata in corridoio in transatlantico che dice: io non volevo fare il ministro, ma sono uno della vecchia scuola, se me lo chiedono accetto, non c'è niente da fare, durerà poco ma accetto. Hai vabbè, capito? Cioè, ti dicono che l'hanno pure pregata, cioè la risposta sì, che ti danno è: sono costretto a fare il ministro, sono costretto a fare il ministro. Oh. Facciamo così, dai, anche noi facciamo la promessa, lasci la zanzara, Giuseppe. No, ma è quello, lo sai che bisognerebbe fare? Ho detto chiudiamo qui. Lui è io sì, ho detto già. Saluto anche il compagno Parenze, non l'avevo sentito. All'inizio. No, io all'inizio della trasmissione l'ho detto, guarda, in polemica col governo, chiudiamo la trasmissione qui. Io pagati, ovviamente, continuiamo cioè, a essere pagati. Finché non si dimette chiudiamo Renzi, la trasmissione Boschi. Fino a quando non si dimette il governo, pagati con la tredicesima, il nostro stipendio normale, però sospendiamo la trasmissione. Secondo me sarebbe un atto di civiltà. Radio, no. Esatto, ma secondo te c'è una questione di soldi in questa vicenda? Cioè la Boschi, per esempio, se andasse via dal governo, dunque non avrebbe più lo stipendio da sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in questo caso, e prima da ministro, come campa? Allora, la Boschi nella sua dichiarazione dei redditi credo che avesse dichiarato non uno stipendio di fame, guadagnava 70.000 euro l'anno. Però io credo che il problema sia prima ancora che economico, come nel caso di Renzi, che non ha uno stipendio perché il segretario del PD non aveva diritto a uno stipendio dopo che Bersani, per economizzare, disse: a me mi date solo le mazzette e mi basta il reddito parlamentare, ovviamente mi date le mazzette e il telefonino. Mm. Ecco, io credo che il problema sia psicologico. Cioè, quando tu a 30 anni, senza gavetta, senza essere stato consigliere comunale, senza niente, ti ritrovi ministro e c'hai l'elicottero, il volo di Stato, la sicurezza, la tutela, la segreteria, è drammatico pensare dove torni, nel nulla. Cioè, la Boschi che fa? Torna al suo lavoro, nel suo studio legale, a fare che? A montare vabbè, a fare l'avvocato, a fare come tutti i cittadini normali. È una cosa psicologicamente però drammatica. scusami, come tutti i cittadini normali, se tu hai annunciato in campagna elettorale che te ne saresti andata perché noi abbiamo anche un altro lavoro, non è che dobbiamo fare politica per forza. Sì, ma ha ragione lui, è psicologico, è terribile effettivamente. Ma secondo me non ce la fai. C'ha ragione poi lui. Vedi che tutti ripartono, vedi che tutti hanno lo stesso segreto, spostano gli scatoloni da una parte all'altra e restano dove erano, e tu l'unica escusa alla festa. Sai quando non ti invitano alle feste del liceo e ti viene da piangere? Ho capito, vabbè. E il caso della Fedeli invece? E il caso della Fedeli è fantastico perché lei era, io l'ho incontrata proprio 7 giorni prima del voto, e quelle ti dicevano con un sorriso: ragazzi, vinciamo noi, mettetevelo in testa. È simpatica poi la Fedeli, no? Con quel molto, tono molto brusco. Guarda Luca, è inutile che ci perdi l'anima, vinceremo noi, quindi scatta questo meccanismo psicologico, siamo tutti come il capo, no? Carbone, la Fedeli, non vogliamo essere da meno del capo, e poi tanto vinciamo noi, è scritto, lo sanno tutti, i giornali, sono tutti con noi, e quindi zac, ti butti e ti tagli le palle. Vabbè, dunque? E dunque io temo che la Boschi questa abbia sottovalutato di molto danno d'immagine tremendo che avrà da questa cosa. Sì, infatti è questa la cosa. Ovunque. E questa è incomprensibile. La sentiranno in tutta Italia, non potrà mettere il naso fuori in un posto che gli arriva un pomodoro in faccia, temo. Temi, in realtà ti auguri, non temi. Ti no, auguri. No, lui temo, non è violento. Ma a te ti piace. Non è vero, ti piacciono i pomodori. Ma un'antipatia sulle persone. Sì, ma no, tu le hai rimproverato pure le tette di fuori là quando si è scoperta. No, a te ti sta sui coglioni, dai, ti sta sui coglioni. No. Ho avuto delle obiezioni sul vestito. cioè, a te ti sta sui coglioni la Boschi, ti sta sui coglioni, ti sta sui coglioni, no, la ma politicamente, dai. Mica è una cosa personale. Ti sta personale, sui coglioni, ma... ti sta sui coglioni perché allora, la consideri arrogante. Allora, in Inghilterra i vestiti sono una cosa molto seria, i vestiti sì. del potere. Ricordati che D'Alema iniziò il suo declino quando in una cena da Raikli, nello stesso con Cita De Gregorio su Repubblica, disse alla Cagnetta: stai mordendo delle scarpe di Raikli, questa mi sta mordendo delle scarpe da 1,5 milioni di lire, e fu la sua fine, perché sono sempre quelli i segnali. Allora la Boschi, che parte col suo taglier blu elettrico di Zara, anche una misura più piccola, che fa simpatia, no? Tutti possono essere a Zara, tutti hanno questo sogno. È finita con i vestiti firmati posto. Come il maglione col della moglie di Renzi. Col vestito, sono due stilisti, due marchi di stile. Fiorentini, uno si è preso la Boschi, l'altro si è presa la moglie. Cervino si è preso la moglie di Renzi, maglioncino smanicato, come sappiamo, 700 euro. Di perline da 750 euro. E invece il vestito della Boschi, quello, l'abito lungo la sera, in foggia di pavone, di pavone! Cioè tu dici spero che glielo abbiano regalato, perché se uno spende 1500 euro prima della catastrofe per andarsene, ma certo che gliel'hanno regalato, ma certo, è anche un problema quello, non ti possono regalare, cioè tu ministro non ti, spero o lo sai che gliel'hanno regalato o no, non ho capito. No, spero che gliel'abbiano regalato, peggio, perché speso peggio, 2500 peggio euro, se gliel'hanno regalato malissimo. Non fare il moralista. Ma che sei matta, scusa, non sei ma non sono moralista, ma se sei ministro così importante, ma non vabbè, ti fai regalare i vestiti agli stilisti, dai, io non lo farei mai. Lo stilista non è che ha un conflitto di interessi con come no, potrebbe esserci, come no, potrebbe esserci, che ne so, potrebbe esserci. Ma questo non mi pare il problema dei problemi, vabbè, francamente, comunque, se ne frega. Luca, ti saluto, ti abbraccio, okay, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Alessandro da Bergamo, vai, Alessandro. Alessandro, dimmi. Ma stasera mi avete proprio spiazzato, cavoli. Tutti perché? I giorni che pensavo, tutte le volte dico, quando riuscirò a parlargli non so cosa gli tiro vai, dietro. Dimmi, dimmi, dimmi. E alla fine invece oggi, prima cosa, dici la cosa intelligente te sugli animali. Persino uno che è riuscito a far dare ragione a Parenzo, quello che gli ha detto se avrebbe due lauree anche lui non so cosa dovrebbe fare. Vabbè, Alessandro, allora... Niente, quello che voglio dire è, alla fine voglio essere sicuro che non sia vero la storia che Parenzo si candida sindaco, perché se è tutto uno scherzo. E che cazzo ti frega a te? Sei a Bergamo, tra l'altro, ci quella è a Padova. Ci stiamo certo lavorando. Che me ne frega, perché allora deve stare zitto, perché se non ha mai ministrato neanche un condominio. Certo. Se faceva il deputato. Faceva il deputato, certo, certo, potta, potta. Come fa Parenzo? Potta, potta, potta, potta. Alle bande che sono bergamaschi, se gli dico poi Bergam. Che non frega, sei subito ignorante. No, Bergam piace molto a me, Bergam, vengo spesso a Bergamo io, ma non penso proprio assolutamente sì, una bellissima città Bergamo, ma allora... mi pare che c'è qualche soggetto così che ne funesta la bellezza, però insomma comunque una bella città. Cristiano parte... da Milano, vai Cristiano, vai, dimmi. Sì, ciao a tutti, che a parte Milano, il parlante, no? Sai che facciamo incazzare subito Parenzo. Voi sì, siete sicuri che l'ascoltatore, che lo ascoltatore di prima fosse finto? Quale Quello incazzato. Non lo so, può essere. Allora? No, perché io così, vivendo in mezzo alla gente, io ho paura che ci sia. Allora, se uno... Cioè, ha ragione lui? Ammettiamo che sia vero, no, ha ragione. No, lo diciamo in toni e modi più consoni. Se uno è un benestante, va bene, perché i soldi non hanno colore. Ma se viviamo in uno stato, c'è una specie di partenza all'incontrario. Cioè, se si è poveri, è meglio non essere neri. Cioè, se uno è povero, è meglio essere nero. Assolutamente, uno cioè, è molto perché più, se sei nero immigrato, se sei nero immigrato e povero ti assistono, sei molto più tutelato, precedenza negli asili, precedenza nei posti letti in ospedale, precedenza nell'assegnazione delle case. Ma non è un discorso razzista, è un fatto, insomma, è un fatto. Tu dici essere neri è meglio, se immigrati, sei povero. Immigrati. Certo, se sei povero meglio essere neri, meglio essere immigrati. Fermo lì. Cruciani, ti si onto, te che cavei onti. Lava Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Un, due, tre. Oh. Ma questo sta male. Sì, vabbè, aspetta. Basta adesso, muore, se no. Vabbè, ho capito, però. Che è successo? Ma adesso, però, ossigenamente, uno deve pagare per se ti sta... Vabbè, ecco. Hai avuto ragione voi. Ah, ti credo. Da noi è gratis. Ma che tu pagheresti per sentire questo? Ciao Cruciani, mentre mio ragazzo mi toccava per farmi venire mi cantava i nani, i nani, i nani, i nani, i nani. Domani iniziano gli iscritti per l'esame di avvocato e io sto ripetendo e l'unica cosa che ho in testa sono sti cazzo di nani. I nani, i nani, i nani, Cruciani maledetto. Mi sono appena laureato, 110 lode in cattolica, ma ho in mente solo una cosa. I nani, i nani, i nani, i nani, i nani. Ragazzi, la gente è fuori di testa per i nani, eh. Non c'è dubbio, la gente è fuori di testa per i nani. Tu lo sai che l'ho incontrato l'altro giorno una persona, sì, una persona rispettabilissima, un padre di famiglia, eccetera. Sì, un notario, mi ferma, cos'era? Mi ferma, no, un, no, un commerciante, non mi ricordo, no, ma con te la sua famiglia. Ad esempio, so Ilda Boccassini che canta i nani, no, ma con la sua famiglia mi ha detto: senti, io sono impazzito per i nani. Cioè, l'unica cosa che mi incrociano, sì, e mi dicono, sì, i nani. Eppure era una, sai, canzone. Sarai che era ricordato per questo. No, ma era una canzone che andava, come dire, che era stata, sì, prodotta anni fa. Cioè, sì, abbiamo risvegliato, no, poi, i nani di Richard, sì, Benson. Poi capisci che ha un testo talmente intenso rispetto anche al Nobel che hanno dato a Bob Dylan. Ragazzi, ma è una storia musicale incredibile, sì, come mai è finita nel dimenticatoio per tutti questi anni? Ma hai anche questo crimine compiuto, cioè tu hai anche hai fatto anche questa efferatezza di risuscitare una porca, diciamocelo chiaramente, dai, ma che cosa c'è di poetico? Ma uno che sono due parole in croce, sono nani, nani, nani, nani, poi ti chiede, lì avete visto? Dici, ma no, che cazzo abbiamo visto? Sulle rive del fiume, sì, finita ma, la canzone, ma che, sì, ma un ritmo talmente forte. Non lo so, ma ho capito il ritmo. Però la canti continuamente, perché ah, sì, ma è trasformabile. Parenzo, Parenzo, Parenzo. Ma negli ospedali psichiatrici giudiziari la cantano questa qui, però dai. Non avete capito un cazzo! Ma dai, non avete capito un cazzo! Allora, qualche giorno pubblico, fa, qualche giorno fa, Rosina, 87 anni. 87 anni Cantavi insieme agli indipendentisti veneti, senti questa cosa, va a manifestare sotto casa del marocchino libero ai domiciliari che l'ha ustionata col ferro da stiro per rapinarla. Pazzesco. A lei e al marito, io una telefonatina a Rosina. Però scusa, cara Rosina, che cazzo vai a fare insieme agli indipendentisti veneti sotto casa, sì, del marocchino, appunto, a protestare perché hai i domiciliari? Vabbè, d'accordo, però hai i domiciliari, almeno hai i domiciliari. Ma facciamo una telefonata a sto cazzo di Rosina, tanto abbiamo il numero, dai. Rosina, 87 anni, credo anche indipendentista veneta, è stata rapinata, qualcuno l'ha anche ferita col ferro da stiro, ferita col ferro da stiro, le marocchin, ora ai domiciliari e lei va sotto casa del marocchino, questo è successo qualche giorno fa, Pronto? Rosina? Sì. Ciao, Radio 24, come stai? Bene. Che hai fatto? Bene, ma bene. Sei andata sotto casa del marocchino, là, dell'extracomunitario? Romeno, com'è? Che cos'è? Ma non si è fatto vedere, non è venuto fuori. Ma scusami, che cos'è quello romeno? Che cos'è? Sì, un marocchino. Ma è quello che ti ha messo il ferro da stiro in faccia? Sì. Ma che cos'è che ti ha messo in faccia? Ma poi? Che vuol dire? Com'è successo poi? Mi avevano sdraiato qua per terra con mio marito su sopra un materasso in due. Sì. E mio marito ci avevano già tagliato, prima da sopra dove dormivamo che era caldo, ci avevano già ancora addormentato, rotto il ceto nasale, il zigomo, tutta la bocca, le labbra. E l'hanno alzato in piedi, dice che lui non c'era, che lui faceva il palo. No, lui che ha alzato mio marito dal letto. Poi mio marito non cammina, non cammina male, c'ha le protesi alle ginocchia, uno è anche rotto di protesi. Ma scusami Rosina, sei andata sotto casa di questo perché questo qua è libero? Eh sì, è i arresti domiciliari, ma lo vedono sempre in giro per la piazza. Ma che sei andato? Come no? Sei domiciliare, domiciliare. Come fa a uscire di casa, scusi? Hanno fatto... Beh, dicono che c'è il braccialetto elettronico, però lo vedono fuori. Ho parlato con quella signora vicino a casa, che c'è un'altra famiglia di noi italiani. Ma che sei andata a fare là sotto, sotto casa di questo qua? Ma c'era tutta la polizia e i carabinieri di Venezia. Ma c'era che sei andata a fare a rompere i coglioni a questo qua? Perché a rompere i coglioni? Sei andata sotto casa a fare caciara, che ti frega, quello stai ai domiciliari. Perché, che volevi? Che venisse fuori, voglio parlarle. E anche perché devi parlare con quello che ha tirato il ferro da stiro in faccia a tuo marito? No, me l'ha tirato a me, mi ha ascoltato. Ma ascolti, ma che cosa ti interessa a lei allora? No, è interessante sapere perché sei andata là, no? Perché hanno fatto una manifestazione in piazza Merlara. Ma d'accordo, d'accordo, manifestazione contro questo qua? No, sì, contro i marocchini, perché non li vogliono qua. Sono venuti con tante macchine e gente da Venezia, da Bergamo, da... Ma quelli sono gli indipendentisti veneti, secondo me. Sì. Ma tu pure sei indipendentista veneta, pure te vuoi il Veneto libero? Ma sicuramente, poi Veneto indipendente. E marocchini fuori, no? Ma sicuro, no, non tutti, perché c'era una ragazza. Non tutti, ecco, non tutti, quelli, meno male. Quelli che lavorano a casa, regolari, che fanno un po' gli schiavetti, va bene. Quelli no? che vi puliscono i bagni vanno bene, vero? Quelli che vi puliscono i bagni, che fanno le pulizie, no, però, che scusa, fanno Rosina, i lavori sporchi, Rosina, va bene. Ascolta, non offendere adesso. Guarda che io, tra io e mio marito, abbiamo fatto 80 anni in Svizzera come immigrati, ma ci siamo comportati sempre come si deve. Che ancora il giorno d'oggi, che ho 86 anni, mio marito 88. Ma guarda, guarda, sa che mia tutti gli immigrati se farabutti setto. Come te permetti? Mia tutti gli immigrati se farabutti, sa. Ma David, ma devi sempre far così, devi sempre far cadere la linea, far abbassare la gente il telefono, dai. Ma scusami, ma come si fa? Cioè, quello è un criminale quello che ha fatto questa cosa, ma non è perché è un marocchino. Beh, quella va sotto casa perché lo vuole in galera, perché una che è stata ferita col ferro da stiro, ma non è perché è un marocchino, è un criminale, punto. Cominciamo a dire le cose come stanno. Vabbè, riproviamo, dai, ogni volta. Senza dire, senza sempre qualificare le persone. Cerca di stare calmo per niente, perché non si possono qualificare. Ma stai calmo con Rosina, falla parlare un attimo. Alle Dia, falla sfogare un secondo, dai. Falla sfogare. Pronto? Rosina? Sì. Scusami, cara, sono Cruciani, ma Parenzo è stato veramente un cafone. Ma con chi parlo, scusa? Sono Cruciani, dalla radio, ciao. Buonasera. Senta, non ho capito bene. Allora, quel signore là che ti ha picchiato selvaggiamente, no? Cioè, sì. col ferro da stiro, sei andata l'altro giorno sotto casa sua. Ma cosa volevi esattamente? Quello sta ai domiciliari. Che volevi dirgli esattamente? No, niente. Siamo andati là, c'è stata una manifestazione che sono venuti da Venezia, da Bergamo, tutta gente. Mi hanno chiesto se volevo andare. Ho detto, sì, vengo. Che sei andata a fare? Ha chiesto, ma scherzo, è andato un giornalista, un fotografo. E ha detto che le dispiace di averne fatto questo, quello che ne ha fatto, che lui si è sentito urlare, piangevamo, urlavamo, è saltato dentro dalla finestra. No, quel signore lì era qua dentro e lui ha aiutato a alzare mio marito e buttarlo giù dalle scale con quell'altro signore che dicono, sembrano che sia scappato in Spagna. Ma che t'ha fatto lui concretamente? T'ha picchiato col ferro da stiro, da Sevizia? Era dentro anche lui, è venuto a prendere il coltello sulla tavola per darlo in mano a quello che ci picchiava quel bastone. Ma il ferro da stiro l'ha usato lui? Loro l'avevano in mano, sì, l'ha scaldato quello alto, il più alto. Il più alto? Ma che so, marocchini, che so questi qua? Sì, tutti e tre marocchini, tutti e tre. Uno da Castelbaldo, lui da Merlara e l'altro non so da dov'era, perché è scappato. Lui è scappato con l'oro più grande, con lingotto d'oro, e avevo dei soldi svizzeri in oro. È scappato, hanno portato via tutto. E almeno se avessero rubato, sì. Se ci avessero lasciati stare, ma ci hanno lasciato agonizzare pieni di sangue per terra. Mamma mia. Mi hanno rotto lo specchio grande del Comò sulla testa, sulla fronte, che ho avuto un trauma cranico, che se non veniva se chiamavo il 118 saremmo stati qua per terra morti tutti e due, legati mani e piedi. E dunque questi qua, tu dici, stanno a casa, invece dovrebbero stare in galera? Sì, quello che voglio. Mio marito lo vuole là, che facciano i suoi giorni là. Adesso ho speso un sacco, tutti i miei quattrini che avevo a parte, per le inferiate, per l'allarme tutto torno alla casa, come si fa a vivere? Noi due viviamo nella paura qui. Certo, assolutamente. Basta con sta storia, nonna. Nonnina mia, abbiamo sentito sta storia un sacco di volte. Basta. E allora? Ma perché? Che ha detto? Ha detto che ha speso tutti i soldi. Scusa, poveraccia, ha speso tutti i soldi. Nonnina? Dica, non ho capito. No, dico, basta con sta storia. Sono Parenzo. Come basta con questa storia? Dico, signora mia, ogni volta ci racconta il ferro da stiro e l'oro. Ho capito, va bene, starà in galera quando deve stare in galera, dai, su. Ma questo sta a casa, giusto, Rosina? Ma ascoltatemi, ma chi siete e da che parte state? Ma come io sto con lei, signora, io sono con lei. Io sto dalla parte del diritto, sempre. No, lui sta dalla parte dei marocchini, signora. Rosina? Ogni volta è così. Ma possibile? Ma no, eri perché... andato al cesso, sei rientrato e hai fatto casino. Ma perché sei andato al cesso? Perché ho bevuto tanta acqua, bevo acqua durante la trasmissione. Ma e come tu sai, devo ogni tanto. Ma perché attacchi pure sta Rosina? Che questa l'hanno seviziata in un lago di sangue. Mi dispiace molto della Rosina. No, non ti dispiace. Di la verità, non ti dispiace. Ma no, non ma ti dispiace, che, non te ne frega un cazzo. Sono dei criminali, è ovvio che mi dispiace moltissimo. Quando viene commesso un crimine, è evidente, perché quello è un criminale. E infatti sta ai domiciliari, è un criminale. Come si deve chiamare? Criminale. È stato condannato. Sta ai domiciliari. Criminale. Cosa? Ma chi è lo stupido? Allora, che ragazzi, tu dovresti indignarti. Solo che c'è un uso politico di questi fatti ormai. Devi indignarti. Allora, cioè, dovresti indignarti. Quanti per un'altra... di queste storie purtroppo ci sono. Solo che questa è targata marocchino e quindi fa più notizie. Tutto beh, ogni oddio, volta col ferro da questa stira. Povera signora. Ho capito, ma anche sta signora va lì. Poveretta esasperata anche dici, questa qua. Dici, restasse a casa sua e non rompesse i coglioni. Ma no, ma lei può fare quel che vuole ovviamente. Adesso andrà dalla vostra parte. Un'altra volta le telecamere. Allora chi è stato? È stato un marocchino, d'accordo. Ci sono dei marocchini criminali, come ci sono degli italiani criminali. I criminali sono criminali. Possiamo fare un passo in avanti e cominciare ho capito, a dire ragazzi, che criminali. Ma se questi sono marocchini, gli hanno tirato il ferro da stiro in testa. Ma è un fatto, è un fatto. Ma non è che il marocchino specializzato del tirare il ferro da stiro in testa. No, anche gli slavi ci sono. Allora tu dovresti indignarti per un'altra ragazzi, cosa. Però, ma veramente, ma aspetta, è l'ABC, devi indignarti per un'altra cosa. Perché il tizio, lo sai, ti ricordi quello l'ultra di Fermo che ha ammazzato con un pugno il, sì, il cioè, nigeriano? L'ultra, no? Ecco appunto, l'ultra. L'ultra, ex ultra del Fermo, ultra del Fermo. Lo sai quanto gli hanno dato col patteggiamento? Quattro anni. Capito? Quattro anni. Sì, poco quattro anche. Anni. Allora io dico una cosa, o è colpevole... Poco, però vedi, la giustizia è così, poco gli hanno dato allora, prima... per averlo ucciso, aspetta, poco. Aspetta, la ricostruzione sai qual è? Prima l'aggressione del nigeriano... Qualcuno si indigna? Aspetta, prima l'aggressione... E del... le telefonate, dove oh, sono un i attimo. No, non dico niente. Dove sono i telefonisti della Zanzara? Dove sono quei no, miserabili che chiamano? Gli ascoltatori. Gli ascoltatori telefonisti. Perché... I telefonisti no, è un'altra cosa. No, no, no, no, no, gli allora, ascoltatori mi sono mi fai riassumere bravi. Un attimo? Prima l'aggressione del nigeriano con un paletto della segnaletica stradale, provocata dall'insulto razzista alla moglie. Quindi il pugno scagliato dall'ultra per difendersi, che ha fatto caracollare all'indietro il suo avversario che è caduto sbattendo la nuca. Questa è la dinamica della ricostruzione. Tutto questo, ragazzi, una persona è morta, 4 anni. Io so che voi siete dalla parte dell'italiano contro il nigeriano. Sono quasi certo che nessuno dice che questi 4 anni, o comunque la maggior parte delle persone, esatto, bravo, sì, che questi 4 anni siano giusti, anzi lo volevate assolto probabilmente. 4 anni. Fabiano da Prato, dai, Fabiano. Fabiano, oh, dimmi Fabiano, dimmi. Sì, grazie. Ascolta, che la metti una canzone? Sì, ma che metto la canzone? Che siamo al jukebox qua, che metto la canzone? Che no, sei cretino, sei? Forte una sera. Ma quale? Che canzone vuoi? Che non sento bene. Allora, parla a voce alta. Si chiama Bello Figo. Ma quella di Bello Figo, lo so, ancora. Te la mando domani, non rompere i coglioni. Santina da Palermo, vai, Santina. Santina? Sì? Oh, dimmi, Santina, che vuoi? Scusami, è 3 ore che aspetto, giustamente. Che vuoi, Santina, dimmi. Niente, io ti volevo dire. Non sento un cazzo, bene. Antonio da Lecce, dai, Antonio. Sì? Dimmi, pronto, Antonio, dimmi. Pronto? Io cambio argomento, però, Ma di quello che ti pare, basta pronto. Che... basta no, che del ragazzo che è stato sospeso praticamente a scuola perché vendeva ma quello è successo 20 giorni fa, amico mio. 20 giorni fa è successo. Sì, ma io quell'argomento mi farebbe e perché? Ce l'hai in testa così? Ce l'hai in testa quell'argomento? Sì, ce l'ho in testa perché quel ragazzo è un eroe, in pratica. Ma è un eroe semplicemente perché è un genio, si è inventato un business, so che anche... Ma non solo, dovrebbero togliere tutte le cose... Ma chi se ne frega? Tutte quelle che vendere... Che cosa? I distributori, dovrebbero toglierli tutti. Ma chi se ne frega? Qui siamo alle 20:50, dove aver ascoltato Richard Benson, la signora, quella di prima, Telese, ospiti vari, eccetera, e tu ci rompi i coglioni con i distributori automatici di merendine. Ma dai, su, a domani, dai. Ma vattene a fanculo, va. Ma ti amo... Ti amo, Cruciani! Ti amo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lo dica a voce alta.